Venite, venite avanti. Yadava Rasej. Antonio Sillato. Perché ha voluto incontrarmi? Che cosa di così urgente e grave deve riferirmi, così come mi ha scritto? Dai verbali risulta che lei ha già fatto deposizioni volontarie, più di una volta, quindi quello che sapeva lo ha detto già. O ha mantenuto il silenzio su qualcos'altro? Giudice Giuseppe De Siena, voi siete giovane e ambizioso. Io invece sono vecchio, stanco e malato. E così ho pensato che quello che so io lo posso dire. Così voi confermate le vostre speranze, le vostre ambizioni di essere giudice. E io posso contribuire a interrompere questa catena di monnezza disumana che abbiamo creato. Vedo che è perfettamente cosciente del sistema di vita rifiutato che avete creato. Come ha saputo di me? Della mia attività, del mio lavoro? Giudici ce ne sono tanti. Ed io oltretutto lavoro in un territorio lontano da questo. Quando uno ormai fa la vita che faccio io, tiene tanto tempo. Per leggere i giornali, per guardare la televisione. E così mi è capitato di leggere un articolo che parlava di lei e del caso di un bambino di 7 anni morto per leucemia che lei ha fatto riaprire perché i genitori non sono convinti della causa della malattia del bambino. Loro pensano che tutto sia derivato dal territorio di dove vivevano, perché mo non vivono più là. Io, noi, questo territorio lo conosciamo benissimo. Ci abbiamo fatto sversare ogni tipo di munnezza proveniente da ogni parte del paese, eppure dall'estero. Noi chi? Quando dico noi, dico sicuramente l'organizzazione, ma con l'avallo di tutto il sistema. Sillato, senta, se lei mi ha fatto venire fino a qua chiedendomi di incontrarla, deve parlare chiaro e non cifrato. Organizzazione, sistema, sono simboli, i nomi. Sillato, lei oggi deve dirmi i nomi. Giudice Giuseppe De Siena, lei non deve arrabbiarsi, prima di tutto perché io sono vecchio e malato. Poi non deve fare l'ingenuo. Se io l'ho fatta venire fino da me qua, è perché io tengo dei figli, che a loro volta tengono dei figli. E pensando alla morte di quel bambino di 7 anni, in un attimo mi è ripassata davanti tutta la mia vita. Il danaro, il potere, gli errori commessi. E sa che cosa diventano? La morte. Va bene, ma stabiliamo un metodo. Le farò delle domande io e lei risponderà in maniera precisa, con nomi e fatti. Giusto. La legge siete voi. Prima di cominciare vuole dell'acqua. Magari, non so, c'è qualcuno in casa che può aiutarla. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Oramai fa parte di me. Ma lo vedi che continua a parlare cifrato? Che cosa fa parte di lei? Andiamo avanti. Ho detto andiamo avanti e si accorgerà che tutto è molto più chiaro. Allora, Antonio Sillato, lei ufficialmente la sua vita lavorativa era un mediatore nel commercio della frutta. Invece? E invece era verso la metà degli anni Ottanta. E un giorno mio cugino mi fece chiamare a casa sua. Mi fece sedere e poi disse: «Siente, Donì, tu ti sei preso il diploma di ragioniere, hai studiato, però con la frutta guadagni poco. Se tu vieni a faticare con me e poi me ti faccio fare una cosa esotta». E lei sapeva già di quale attività si trattasse? Giudice, mio cugino a quell'epoca già era molto noto per quello che faceva. Già. Che termine, eh? Era noto. Eh sì, perché in questo paese quelli noti spesso, o quasi sempre, sono quelli come suo cugino, della stessa pasta. Ed è per questo motivo, per quelli come loro, che siamo arrivati a questo punto, a raschiare il fondo, facendo perdere a tanti la speranza, ma non di certo a quelli come me. Non è semplice, mi creda. Io non penso che si nasca buoni o cattivi, giudici o delinquenti. È un attimo, un episodio della vita che può farti sceglierti la strada, giusto o sbagliata che sia. Bravo. Bravo giudice di Siena. Si vede che siete giovani e ambiziosi. Bravo. Continua. Ho cominciato a lavorare per mio cugino. Portava i conti, di tutto, allo spaccio, al pizzo, e poi i conti più importanti, quelli dello sversamento di tutta quella che può essere definita munnezza, ogni tipo di merda, liquami tossici, rifiuti chimici, plastica. Ma dovunque, dovunque, senza scrupolo. E addosseva. Addosseva lo scrupolo, lo giudice. Lei è giovane, ma questo lo deve sapere già molto bene. C'è stata tanta gente già, non se ne fotte nessuno, che non guarda in faccia a nessuno. Manca il creatore. Che cosa c'è, Sillato? È il tempo che sta finendo, come ha detto lei, che le provoca questa commozione. O lo scrupolo per tutto il male che ha fatto. Io tenevo il compito di contattare sia le ditte che i proprietari dei terreni. Loro in cambio ricevevano un regalo. Un bello regalo. Lasciavano che sotto a quella terra fertile, sotto quella terra che è stata sempre riconosciuta per avere prodotto la migliore frutta, i migliori ortaggi, la migliore verdura del paese, sotto a quella terra felice, fosse sversato ogni tipo di merda. Sì, Lato, ma ha mai pensato, almeno per un attimo, che questa terra, questa terra che per anni aveva prodotto sempre i migliori ortaggi, la migliore verdura del paese, questa terra, poi tutta questa merda, come la chiama lei, la terra l'avrebbe rigettata sotto forma di cibo, di aria, di acqua inquinata. All'epoca contavano solo i soldi e il potere. Che schifo! E a quel bambino, Sillato? A quel bambino e a tanti altri bambini come lui? Lei non ci ha mai pensato? Al dolore dei genitori, alla privazione del loro sogno di vita? No, diventi Una specie di bello inferocinta, un contenitore di arroganza e di potere nel comandare e decidere la vita degli altri. Lo ha detto, belve, belve sanguinari, belve inferocinta. E comunque, io mo ci penso. Forse perché sta finendo il tempo. Eppure perché... Perché? Su, avanti, risponda, perché? Non tutto quello che abbiamo fatto era semplice. Per arrivare a vincere sempre, devi imbrogliare le carte, farle sparire, uccidere, corrompere. Su questo, anche se come dice lei sono molto giovane, non ho alcun dubbio. Ed è proprio per questo che ho sentito dentro di me fin da bambino la voglia di combattere per la giustizia. Sa precisamente da quando? Era una mattina a scuola in cui alcuni miei compagni prima accerchiarono e poi picchiarono un altro nostro compagno. Solo perché voleva dire al professore la lezione che aveva studiato. Nient'altro che dire quello che lui col suo impegno aveva fatto. Gli altri no. Gli altri dissero che era sbagliato. E giù tante botte. Io ero là, rimasi nel mio banco, non feci nulla. E da quel giorno quell'immagine di quel bambino picchiato e del mio essere vigliacco, codardo in quel momento, mi è rimasta nella mente come un macigno. Allora ho deciso di scegliere il coraggio, la giustizia e sempre la verità. Costi quello che costi, anche la vita stessa. Giudice, a quel vostro compagno di classe lo avete mai visto più? Sillato, continuiamo. Queste non sono cose che la riguardano. Avete ragione, non sono cose che mi riguardano. Mio cugino per molti anni ha determinato la vita di questo territorio, di altre zone del paese. Lui diceva che fare tutti obbedivano. Noi decidevamo chi doveva vincere e chi doveva perdere. E certe volte abbiamo fatto vincere certa gente che nemmeno la munnezza li avrebbe voluti per amici. Li abbiamo presi e li abbiamo manovrati. Come si manovra questo? Un burattino. Si mette un dito nella testa, uno in una mano, uno nell'altra, e si manovra proprio piacimento. Questo lo ha lasciato qua un altro mio nipote. Se l'è dimenticato. E io ogni tanto ci gioco. Sì, la domanda. Ma come avete fatto a non essere mai presi? Stanati? Arrestati e messi fuori da questo sporco gioco? Com'è possibile che per tanto tempo mai nessuno è arrivato fino a voi, vi ha scovato? Giudice di Siena, anche se siete giovane, questo lo dovete sapere già molto bene. Si vede fino a dove gli occhi vogliono vedere, si sente fino a dove le orecchie vogliono sentire, e si arriva dove si vuole arrivare. Noi tenevamo tutti i fatti, dal pezzo grosso fino a quello piccolo, dal pesce grande fino all'ultima ruota del carro, tutti. Lei naturalmente aveva la faccia pulita, le mani sul lato, lei non se le sporcava, il lavoro sporco lo dovevano fare gli altri. Lei era quello che aveva studiato, si era preso il diploma, che portava i conti. O ragioniera. A me, una sola volta, mi avevano messo la pistola in mano. Mio cugino, proprio lui, sì. Mi ordinò di sparare a uno dei nostri che ci aveva tradito. Io puntai la pistola alla testa di quell'uomo, alla fronte, poi la lasciai cadere a terra. Ho avuto paura. Mio cugino mi perdonò solo perché io gli servivo. Ma chi si comporta come me è un vigliacco e non ha più il diritto di vivere. Deve morire. Ha visto, giudice? Io e lei siamo pari. Anche io un giorno, come lei, ho avuto paura. Che cosa? Io e lei siamo pari. Ma lei chi crede di essere? Lei e tutti quelli come lei siete stati, siete solo dei criminali. Non si permetta mai più di paragonarsi a me, ha capito? Mai più! Giudice, io non volevo né offenderla, né paragonarmi a lei. Ho solo detto che quello che è capitato a lei è capitato pure a me. Sillato, basta! Adesso voglio sapere perché mi ha fatto venire fino a qua. Qual è la cosa che intende dirmi? Qual è il suo segreto? Il mio segreto, sì, è giusto, è un segreto, è vero. Sa, ci ho pensato a lungo, prima di decidere. Poi però ho pensato che non era giusto portarselo nella tomba, e così ho parlato una volta con un sacerdote, è venuto da me, abbiamo parlato, poi è tornato un'altra volta e un'altra volta ancora, e così ogni tanto viene a trovarmi, è lui che mi ha convinto. a dire il mio segreto. Ma perché non si è curato? Io ho letto tutti i suoi referti medici. Mi risulta che lei ha rifiutato più volte il ricovero. Eppure il suo male le è stato diagnosticato tanto tempo fa. Sarebbe stato possibile intervenire con delle cure appropriate. Il mio male. È bella questa espressione. Ha ragione, perché è mio. E l'ho voluto io. E sa perché? Perché quando facevamo sversare tutta quella monnezza, tutta quella merda, noi non ci siamo mai resi conto che quella non uccideva subito, ma poco alla volta. E tutti quanti, pure a noi, quelli che pensavamo di essere gli invincibili, quelli che avrebbero sempre comandato e deciso la vita di tutti quanti gli altri. E badi bene, ho detto degli altri, perché noi nella vita nostra non l'abbiamo mai tenuta. E questo è stato davvero un grande errore, Sillato. Rifiutare la vita. Non sarebbe stato più bello avere del tempo per vivere, per sorridere, per giocare, per divertirsi, per amare. Comunque, Sillato, ora basta. Io non sono venuto qui per ascoltare una confessione. Non sono certo io il suo padre confessore. Il mio compito è un altro. Andare in fondo, fino in fondo, e scoprire la verità. Quindi, ora, lei deve dirmi che cosa vuole da me. Giudice, quel bambino di 7 anni morto per leucemia, quel bambino era un mio nipote. Lui non lo ha mai saputo e nemmeno il padre sa che io sono il padre. Che cosa? Ma sta scherzando? È la verità. Eravamo nel pieno del potere. E un giorno venne da me, a casa mia, come succedeva a tanta gente. Una donna del paese, che io conoscevo. Una bella guagliola, giovane. Lei mi chiese di aiutarla. Aiutarla a trovare un lavoro al marito. Io dissi sì, qualcosa posso fare, però tu... Basta, signore, basta. Non c'è bisogno di dirmi in seguito. Da quel giorno mi sono fatto schifo a me stesso. Poi ho collaborato con la giustizia, per anni, ma ho detto solo quello che volevo dire, il segreto, il vero segreto, quello che avrebbe cambiato tutta l'inchiesta, quello me lo sono tenuto con me, e per me. Ma lo sa che se avesse parlato prima, forse quel bambino si sarebbe potuto salvare. Lui e tanti altri bambini e tanta altra gente che avete ucciso voi. Voi e la vostra spietata violenza. Non parlo di quella di quando avete sparato, minacciato, di quando avete ucciso, no. La violenza è troppo chiara. Ce n'è un'altra, Sillato. Un'altra violenza. ancora più grave, l'ignoranza. Voi non vi siete mai resi conto che qualcuno prima o poi vi avrebbe portato il conto, prima la natura e poi la giustizia. Adesso basta, basta, sono io che glielo chiedo, non continua a massacrare. Adesso fanno male queste parole, è vero, pesano come macigni che vi cadono addosso, ma si là sono fardelli che avete voluto voi, li avete desiderati, li avete rincorsi. Giudice, la vede quella borsa? Su questo tavolo, dietro a me. Questa borsa vale un tesoro. Quel tesoro falso che avevamo costruito in tanti anni racchiuso là dentro. Contiene l'elenco di tutti i terreni di questa zona e di altre zone del paese dove abbiamo fatto sversare di tutto. E l'unico che poteva consegnarvela ero io, perché ne ho portato il conto. Gli altri, come mio cugino, manco se ne importavano. Dove andava a finire tutta quella munnezza? E perché l'ha tenuta nascosta per tutti questi anni? Perché questi documenti non li ha tirati fuori prima? Perché non decidere prima? Forse perché pensava di essere invincibile, di non ammalarsi. Forse perché aspettavo che quel bambino che un giorno in classe ebbe paura di difendere il suo compagno mentre lo picchiava, fosse diventato grande e coraggioso. È un giudice capace di scoprire tutta la verità. Vuole sapere una cosa? Io mi sono sempre chiesto che cosa sia davvero la verità. È difficile darne una definizione unica, universale. È molto difficile. Io credo che ognuno di noi, in base alla propria vita, alle proprie esperienze, sceglie la sua verità. È un attimo, come ho detto prima, è un episodio. E nella vita spesso succedono cose come quella che è successa a noi oggi. E io questa è la verità che ho scelto. La verità amica della giustizia. Questa mi piace. Queste carte mi aiuteranno a far emergere la verità e a fare giustizia. Così almeno quei bambini avranno la certezza di essere vissuti per aiutare altri bambini come loro a non morire. Tesina, pure se ho studiato io bene tutte queste parole che ha detto, non le ho capite. Sono parole difficili, pensieri difficili, però anche se non li accetterà da me, io le voglio fare gli auguri affinché lei possa andare fino in fondo. In fondo a tutto. scoprire tutta la verità, arrivare davvero a tutti quanti. Io non ci sarò più, avrò raggiunto il posto che merito e sicuramente non è vicino a quel bambino. Lui è tra gli angeli. Buona fortuna, giudice Giuseppe De Siena. Arrivederci, Antonio Sillato. Mi toglie una curiosità. Perché hai indossato questo vestito bianco oggi? Si sbaglia, giudice. Non è bianco. È bianco sporco. Come a me. Questa confessione che hai fatto al giudice, spero che possa alleviare almeno in parte il tuo cuore. Questo cuore che per gran parte della tua vita è prestato al male, mentre invece voleva e avrebbe potuto battere per il bene che ci è concesso vivendo, respirando, svegliandoci ogni giorno dicendo: Signore, grazie di questo dono, eccomi per significare, fai di me un costruttore di bellezza, un artigiano del bene. Invece oggi il bene lo teniamo da parte, lo teniamo chiuso nell'angolo buio di un cassetto, e il male avanza, avanza dentro di noi, quasi come un cancro, lo stesso che avete procurato quel bambino e a tanti altri che con l'inganno del denaro avete cambiato e condizionato il tempo. Antonio, oggi hai compiuto il tuo viaggio e una meta l'hai raggiunta. Con il tuo gesto hai aperto la porta del tuo cuore, hai scardinato la ruggine ed è uscito nuovamente il colore della vita. Vedi, proprio ora che la tua sta finendo. Ora posso approvare il tuo pentimento davanti agli uomini. Davanti a Dio, Antonio, pregherò per te.